Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, esce il 3 novembre l'ultimo romanzo di Enrico Brizzi, l'autore italiano che acquistò fama da giovanissimo con Jack Frusciante uscito dal gruppo. Da allora Brizzi non ha tradito i suoi lettori e ritorna adesso con il libro La nostra guerra, pubblicato da Baldini, Castoldi, Dalai, 646 pagine, 20 euro. Questa è la seconda puntata a ritroso della storia di Lorenzo Pellegrini. Avevamo conosciuto il protagonista del libro negli anni 60, allora era un giornalista esiliato nelle colonie africane di un'Italia ancora fascista che aveva mantenuto appunto le colonie, che si era salvata dal turbine della seconda guerra mondiale e che assisteva al declino fisico di Benito Mussolini, che sarebbe morto nel suo letto. In questo libro andiamo qualche anno prima, esattamente negli anni fra il 1942 e il 1945, siamo a Bologna e siamo appunto in un'Italia in cui il fascismo non si è alleato con la Germania nazista e quindi non ha ancora subito lo shock dell'ingresso nella guerra. In realtà nel libro l'Italia sarà attaccata dal nazismo e si salverà solo grazie all'intervento degli anglo-americani che arriveranno in Italia non come nemici ma come alleati. Microcosmo del libro è la famiglia Pellegrini, una famiglia molto sui generis, come scopriremo leggendo il libro, il cui capofamiglia, l'avvocato Paride, in persona un modello del fascista della prima ora, convinto e militante e ovviamente grande ammiratore del duce. La famiglia sarà coinvolta nella tragedia della guerra, ma soprattutto il figlio Lorenzo, appunto la voce narrante di questo nuovo romanzo, entrerà attraverso le vicissitudini familiari e soprattutto il dramma della guerra nella maturità. Ma sentiamo l'autore. Buongiorno Enrico Brizzi. Buongiorno. Il suo libro è un seguito, o meglio, un antefatto rispetto alla storia di Lorenzo Pellegrini, quindi sta diventando una saga questo con questo personaggio. Lei si è appassionato di più al suo personaggio o al periodo nel quale ambienta i suoi ultimi due romanzi, cioè un'Italia fascista vincitrice? Ma mentre scrivevo L'inattesa piega degli eventi, che è il primo romanzo della saga ed è uscito nel 2008, mi sono reso conto che avevo a che fare con un materiale narrativo troppo seducente per esaurirsi in un romanzo soltanto, e quindi per rispondere in forma breve credo che la fascinazione principale sia quella di fare della fiction su un periodo dannatamente serio della storia del paese, da cui di solito i romanzieri si tengono ben lontani, se non per raccontare esperienze di prima mano, quindi quelli della vecchia generazione ormai. Questo fascino che suscita su di lei questo periodo, da che cosa dipende? Ma dipende dal fatto di essere cresciuti sentendo in casa i racconti più antichi di prima mano ai quali ho avuto accesso. Sono i racconti dei nonni e degli zii anziani sul periodo della guerra, che nella mia crescita ha sempre avuto una valenza un po' mitologica e fondativa, no? Cioè, prima della guerra indicava un tempo arcaico, irraggiungibile con i nostri metri di giudizio. La guerra era l'esperienza in cui sentivi che per l'opinione di tutti gli anziani era lì che in qualche modo, tra drammi e amori che andavano avanti o nascevano nonostante la tragedia sullo sfondo, si è creata una nazione. Almeno questa è la consapevolezza che ho assunto io in famiglia e nella cerchia dei conoscenti. E come mai questa trasposizione di un'Italia fascista che sostanzialmente poi fa la pace col fascismo, che lo lascia governare, che rimane una nazione non democratica, ma insomma che col fascismo convive? Naturalmente tutti sappiamo, o dovremmo sapere piuttosto bene, come sono andate le cose nella realtà. Quello che mi affascina è provare a raccontare un grande rimosso, cioè quello del consenso che il fascismo aveva prima della tragedia della Seconda Guerra Mondiale. Accostandomi a fonti librarie, ma soprattutto a collezioni di corrispondenza, lettere ritrovate in casa, nella cerchia più vicina, la cosa più impressionante è rendersi conto che fino al periodo della guerra d'Etiopia, che è stata una guerra d'aggressione di cui conosciamo oggi sia le modalità sia le conseguenze per il loro paese e per il nostro, cioè l'isolamento internazionale e l'inizio ritrovarsi all'angolo, diciamo, nello scacchiere internazionale, in quegli anni il consenso al fascismo era quasi plebiscitario, e questo è molto difficile da accettare, rendendosi conto che 10 anni dopo praticamente sembrava che nessuno avesse mai vestito la camicia nera. E infatti questa è una tesi che ha fatto sempre molto discutere gli storici fin da De Felice. Sì, poi io non voglio invadere il campo degli accademici, naturalmente. Quello che mi interessa è che i lettori si rendano conto che un'Italia che non abbia preso parte alla Seconda Guerra Mondiale è stata sfiorata storicamente nella realtà. L'Italia non è entrata in guerra con la Germania il 1° settembre del 1939. C'è stato un periodo di mesi di indecisione in cui nel paese si sono contrapposte forze poderose a favore o contro l'intervento, e naturalmente quello che ha fatto pendere decisamente la parte dell'intervento è stata la volontà di un uomo solo, dell'uomo che aveva in quel momento tutte le leve del comando in mano. E io sono cresciuto in un paese democratico in cui si diffida da chi vuole tenere tutte le leve del potere in mano, e vedendo l'Italia in cui sono cresciuto io e interrogando l'Italia dei nonni, mi chiedo come sia possibile che, nonostante tutto e nonostante tutte le volte in cui ci siamo scottati e andati dolorosamente a sbattere facendo male a noi e agli altri, resista nel paese un sostrato di fascinazione, secondo me immutabile, verso chi si propone come il manovratore, l'uomo forte, la persona che penserà lui a risolvere i nostri problemi, che è una mentalità non esattamente da cittadini di una democrazia evoluta. Senti, un altro sostrato che emerge dal suo libro è quello di una diffusa tendenza all'opportunismo e al conformismo che c'è fra gli italiani. Purtroppo è qualcosa che credo che ognuno di noi conosca molto bene, se non altro per averlo visto al cinema, diciamo, per conoscere una certa artistica o modo di mettere alla berlina il malcostume nazionale. Se pensiamo ai classici degli anni 60, credo che l'opportunismo non manchi mai tra i tratti che fanno più ridere e disperare di noi stessi quando ci guardiamo allo specchio. Lo leggeremo Vecchio in democrazia, Lorenzo Pellegrini? Contando che il finale dell'inattesa piega degli eventi, che è quindi il momento cronologicamente più avanzato della saga, vede Balbo succedere, vecchio Balbo succedere a Mussolini, che muore decrepito nel 1960, e che sono state promesse libere elezioni di lì a pochi anni, credo che nel terzo volume, dopo l'inattesa piega degli eventi e la nostra guerra di cui ci troviamo a parlare adesso, vedremo Lorenzo Pellegrini alle prese con un paese in mutazione. Vedremo che tipo di mutazione sarà. Grazie Enrico Brizzi. Buona giornata. Buona domenica. Grazie. Naturalmente l'epilogo di Mussolini fu molto diverso, e ce lo descrive in un agile libretto un grande giornalista e noto scrittore del Novecento, Paolo Monelli, vissuto tra il 1891 e il 1984, che nel 1965 pubblicò per una rivista di storia una cronaca delle ultime ore di Mussolini, che viene adesso riproposta da Mursia, da Milano a Dongo, l'ultimo viaggio di Mussolini, 118 pagine, 10 euro. Il libro appunto è del 65, quindi, come scrive Beppe Benvenuto nella prefazione, Monelli non poteva tenere conto di certe acquisizioni a cui solo di recente sono approdati gli studiosi, circa appunto l'andamento convulso degli ultimissimi giorni della vita di Mussolini. Ma questa cronaca resta fresca e godibile per accostarsi a una delle pagine più tragiche della storia nazionale. Una pagina lunga che comincia nel libro di Monelli il 23 aprile del 1945, quando Mussolini, scrive Monelli, non aveva alcuna idea chiara di quello che avrebbe fatto o stabilito. Il 25 ha luogo il celebre incontro col cardinale Schuster per cercare di ottenere un lasciapassare, e qui abbiamo una cronaca molto dettagliata dell'incontro con il cardinale prima e poi con i plenipotenziari del CLN e con il maresciallo Graziani. In questa occasione Mussolini apprende che i tedeschi stanno a loro volta per trattare la resa, si infuria, si allontana, e gli antifascisti, tra i quali Pertini, cominciano a litigare tra di loro sulla sorte da infliggere al duce. E poi naturalmente la fuga e l'epilogo con Claretta Petacci a Dongo. ripeto, è una brillante prova di giornalismo per rimmergerci in ore convulse della storia nazionale. E a proposito della Seconda Guerra Mondiale, abbiamo ricordato pochi giorni fa il 70° anniversario dell'inizio del conflitto. Vi segnalo due titoli di uno dei maggiori studiosi della Seconda Guerra Mondiale, Richard Hovery, uno studioso britannico che ha pubblicato Con il mulino, le origini della Seconda Guerra Mondiale, 206 pagine, 13 euro, tradotto da Maria Luisa Bassi, e con Feltrinelli, Sull'orlo del precipizio, 1939, i 10 giorni che trascinarono il mondo in guerra. Feltrinelli, 160 pagine, 14 euro, tradotto da Giancarlo Carlotti. Il primo è un libro che risale nella prima edizione al 1987, ma tiene conto dei nuovi risultati storici e insiste sugli elementi di crisi dell'ordine internazionale, anche di carattere economico, che avrebbero potuto anche giungere a un esito diverso, secondo l'autore, il quale scrive qui che la guerra nel 1939 non fu in alcun senso predeterminata, ebbe luogo a seguito di una complessa interazione di una moltitudine di fattori, ma altri esiti sarebbero stati possibili. Il secondo libro, invece, è un libro scritto per questo anniversario, quindi recentissimo, e racconta i primi passi del conflitto, cercando di nuovo di capire perché esplose quella guerra. La miccia polacca fu la deflagrazione di un conflitto tra Germania, Gran Bretagna e Francia che, secondo l'autore, era stato reso fatale dalla disintegrazione di un mondo. E con questo passo la linea alle informazioni sul traffico. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Un insolito esperimento è quello condotto da 9 storici che hanno dedicato attenzione ciascuno a una particolare pagina della storia di Firenze. Il risultato è il libro Gli anni di Firenze, pubblicato dalla Terza, 232 pagine, 16 euro. Gli storici sono Alessandro Barbero, che parla della battaglia di Campaldino, Franco Cardini sulla Congiura dei Pazzi, Adriano Prosperi sul Savonarola, Maurizio Viroli sul Machiavelli, Paolo Rossi su Galileo, Giuseppe Recuperati sulla riforma criminale del Granduca Pietro Leopoldo, Raffaele Romanelli sul trasferimento della capitale a Firenze, Emilio Gentile su Firenze, capitale delle avanguardie all'inizio del secolo scorso, e infine Alberto Melloni su Don Milani nella Firenze di Lapira. Questo libro raccoglie le lezioni che sono state organizzate a Firenze appunto tra l'ottobre del 2008 e il marzo del 2009. E queste pagine ci restituiscono alcuni degli episodi più importanti della storia di Firenze, alcune molto note, alcune magari meno famose, per esempio la data del 30 novembre del 1786, quando il Granduca Pietro Leopoldo riforma profondamente il diritto penale, eliminando per primo la pena di morte e la tortura e avvicinandosi al processo moderno che considera intangibile il diritto alla difesa dell'accusato. E troviamo anche, come avete sentito, delle esperienze molto più recenti, come quella di Don Milani e dello scandalo che la sua predicazione, il suo esempio, portò nella Firenze cattolica di quegli anni. Nel libro di cui vi ho parlato, come avete sentito, troviamo alcuni dei grandi protagonisti della cultura umanistica rinascimentale che sentiamo dialogare in una delle rare opere teatrali di Thomas Mann, Fiorenza, che è pubblicata dalle edizioni SE, 188 pagine, 20 euro, tradotto da Mario Merlini. Protagonisti assoluti del dramma sono Lorenzo il Magnifico, che è giunto al termine della sua vita, e il monaco Savonarola, che naturalmente intende ripristinare la severità dei costumi nella sua città. E Savonarola, spiega Margherita Cottone, è l'autentico protagonista, anzi, di questo dramma. Viene dipinto come un grande eroe del vero cristianesimo anche da Mann, il quale scrive, a proposito di questa figura letteraria, che in lui, nel santo di San Marco, il cristianesimo giunse alla potenza personale, ed è questo eroico evento oggetto del mio lavoro, spiegava appunto Mann. I due, Lorenzo il Magnifico e Savonarola, danno vita a un confronto che è un dialogo, uno scontro tra due poli, quello tra etica ed estetica, tra spirito e natura, come testimoniano queste righe del dialogo che adesso vi presento. Se siamo nemici, ebbene, io vi dico che siamo fratelli nemici. Io non sono vostro fratello. Io odio questo futile rendere giustizia, questa lasciva comprensione, questa viziosa tolleranza dei contrasti. Essa non mi deve neppure sfiorare. Fatela tacere. Io lo conosco, questo spirito. Lo conosco troppo bene. Troppo bene. Lungi da me. Odo Firenze, odo il vostro tempo, raffinato, sfrontato, tollerante. Ma io non devo esserne infiacchito, disarmato, non io. Sappiatelo una volta per tutte. Voi odiate il tempo, e il tempo vi comprende. Chi è il più grande tra voi? Io. Forse sì, voi dunque, bene. Ma le cose mi appaiono così. In un tempo come dite che sia fatto il nostro, in un tempo raffinato, scettico e tollerante, curioso e svagato, multiforme, privo di limiti. In un'epoca come questa, ogni limitazione è già genialità. Perdonate, io non discuto, non voglio umiliare. Vorrei soltanto vedere chiaramente in voi e in me stesso. Una forza che si oppone decisamente allo scetticismo generale può operare cose immense. Tutti i piccoli uomini, i raffinati non credono, non pensate che credano, sentono la forza e vi si assoggettano. Ancora una cosa, perdonate. Ascoltate. A me pare questo. Voi disprezzate l'arte, eppure ricorrete ad essa. Il vostro nome e la vostra fama sono divenuti illustri perché questo tempo e questa città venerano l'individuo cosciente di se stesso. Mai e in nessun luogo vi fu tanta riconoscenza e si elargì ricompensa così ricca a chi anelasse con originalità la propria gloria. Se voi siete divenuto grande a Firenze, è stato soltanto perché questa Firenze è così libera, così raffinata dalle arti da accettarvi come padrone. Se fosse un po' meno, soltanto un pochino meno infatuata dell'arte, vi farebbe a brani invece che onorarvi. Voi sapete questo? Non voglio saperlo. Siamo sempre a Firenze, ma con un libro di tutt'altro genere, esattamente un giallo, in cui ritroviamo un investigatore che ha già un suo pubblico affezionato, il commissario Bordelli, creato da Marco Vichi, e il quale ritorna con Morte a Firenze, pubblicato da Guanda, 346 pagine, 17 euro. È un'altra storia avvincente che parte dalla scomparsa di un bambino per farci ripiombare in una delle pagine più drammatiche della storia recente di Firenze, cioè l'alluvione del 4 novembre del 1966. Un altro investigatore che ci ha già visitato in questa trasmissione è Enrico Radeschi, il giornalista detective creato da Paolo Roversi. Ritorna nell'Uomo della pianura, pubblicato da Mursia, 290 pagine, 17 euro. Qui invece siamo a Milano e nella Bassa, anzi una Bassa contemporanea, con i mungitori di mucche indiani che hanno preso il posto dei vecchi bergamini, come si chiamavano, e che fanno magari perdere la testa a qualche ragazza che rischia però di fare una brutta fine. E proprio su un delitto che nasce in questo ambiente indaga il giornalista, originario anche lui della Bassa, ma affezionato, anzi innamorato a Milano, come testimoniano queste righe. Enrico Radeschi si sentiva il padrone della città. In sella al giallone, la sua Vespa classe 1974 ridipinta di giallo a bomboletta, aveva esplorato la metropoli palmo a palmo. Non esisteva strada che non avesse percorso o bar di quart'ordine dove non fosse entrato almeno una volta. 10 anni di Milano gli erano entrati dentro, conficcati nel costato come binari del tram. Lui, uomo della pianura, giornalista freelance al soldo del Corriere, aveva finito per ammorbidirsi, per affezionarsi persino. Una condiscendenza nei riguardi della città che lo stupiva. Peggio, Milano gli piaceva, al punto che ne sentiva la nostalgia quando ne stava troppo tempo lontano. Gli mancava tutto. Piazza Duomo battuta dalla pioggia, le luci blu del Castello Sforzesco illuminato alle 3 di notte, l'obbrobrio piantato nel mezzo di Piazza Cadorna, lo sferagliare dei tram al mattino presto, i negozi di kebab di via Vitruvio, i navigli affollati d'estate, le colonne di San Lorenzo inondate da bottiglie tintinnanti, l'ora dell'happy hour al micro birrificio di Lambrate, la galleria gremita di giapponesi, Brera e via Solferino, Palestro e Porta Venezia, l'isola e la Maggiolina, Melchiorre Gioia e Buenos Aires, la sua casa di ringhiera in via Venini. Troppo perché quella città gli risultasse indifferente. Un altro binomio poliziesco è quello tra Parigi e il commissario Benchimoun, detto Bench. È una creatura questa dello scrittore Tito Topian di Casablanca, che è stato pubblicitario, autore di fumetti, sceneggiatore, e ha creato un altro personaggio famoso presso soprattutto gli telespettatori francesi, il protagonista di una fortunata serie televisiva, il commissario Navarro. Troviamo invece il commissario Bench nel thriller Ore contate, pubblicato da Giunti, 252 pagine, 14,50 euro, tradotto da Federica Angelini. Dicevo di Parigi, siamo infatti in una Parigi torrida di agosto che viene funestata dalle gesta di un serial killer che colpisce tra gli omosessuali, e sarà proprio questa la vicenda sulla quale indaga il commissario Bench, dalla vita funestata da altri problemi che rendono la sua personalità particolarmente significativa. Tutt'altro ambiente troviamo in un'altra serie di indagini, quelle che svolge niente di meno che la grande scrittrice Jane Austen, che torna con Jane e il segreto del medaglione di Stephanie Barron. L'autrice è una storica che poi ha lavorato anche con la CIA per darsi infine alla scrittura e scoprire questo filone, questi polizieschi di cui è protagonista la grande scrittrice inglese. Questo libro è pubblicato da Tea, 284 pagine, 11 euro, ed è tradotto da Alessandro Zabini. Naturalmente ci troviamo in un periodo completamente diverso, siamo nella Bath degli inizi dell'Ottocento, dove John Austin si trova per annoiarsi sostanzialmente in un periodo di riposo che scorre appunto nella monotonia, una monotonia che sarà ravvivata drammaticamente da un delitto che inizia in un ballo mascherato in cui l'Arlecchino Bianco viene ucciso, viene scoperto sopra il suo cadavere un oggetto misterioso, appunto il medaglione intorno al quale ruoterà l'indagine della grande scrittrice. E a questo punto... Il confettino. Concludiamo con altri due libri gialli, questi per ragazzi. Ne è autrice una scrittrice molto famosa perché è la creatrice di Pippi Calzelunghe, Astrid Lindgren, di cui Feltrinelli pubblica SOS per Kalle Blomkvist e Kalle Blomkvist il grande detective. Il primo 224 pagine, 13,50 euro, il secondo 192 pagine, 13 euro, tradotti da Fiorella Onesti e Laura Cangemi. Troviamo qua un ragazzino dalle doti insospettabili di investigatore che addirittura si potrà arrogare il titolo di grande detective. E con questo ringrazio Vittorio Mussini in redazione, Carmelo Lauricelli in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it. Vi do appuntamento domenica prossima e vi auguro buona settimana.